Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Mi guardo a sinistra, poi guardo verso destra, e tutto quello che ho da vedere è una frontiera da attraversare. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La decadenza di un paese porta ad andarsene verso nuovi lidi. Messaggio chiaro, quello che il cantautore Ivano Fossati lancia nell'ultimo album della sua carriera, all'interno del quale figura pure il brano che avete appena ascoltato. Ci diamo una seconda possibilità e la sopravvivenza è un biglietto per andare più avanti e trovare un lavoro e decenza. Così canta Fossati. L'arte e la musica continuano dunque a raccontare, al pari del cinema e della saggistica, la fuga dei nostri migliori giovani professionisti. Oggi il focus di Giovani Talenti si sposta sul mondo della moda e del design, con una storia che una volta di più ci fa capire come un paese bloccato, qual è l'Italia, finisce per far scappare tutti quei giovani realmente intenzionati a mettersi alla prova, evitando spintarelle e raccomandazioni. Giovani che all'estero trovano un terreno di gioco più semplice, lineare e in grado di sviluppare appieno il loro potenziale. Per questo fuggono dalla decadenza. Sono veramente scappata sia per la noia che mi circondava che per cercare nuovi stimoli, che in realtà poi ho trovato a Berlino. Lisa Filippini, 28 anni, è Project Director a Berlino per Fear Management, la sua agenzia è dedicata alla promozione dei giovani designer. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In Italia preoccupano la disoccupazione giovanile e la precarietà sempre più spinta, lo afferma la Commissione Europea. Secondo Eurostat, la disoccupazione dei giovani italiani ad agosto è aumentata fino al 27,6% contro una media dell'Eurozona al 24%. In crescita pure il numero dei giovani che non studiano né lavorano, il 19,1%. In Europa fa peggio di noi solo la Bulgaria. Un fattore di ulteriore preoccupazione per Bruxelles è la crescente precarietà dei giovani lavoratori più vincolati a contratti a termine e part-time. L'Italia è il secondo paese nel continente per utilizzo di forme contrattuali temporanee. Aumentano infine nel secondo trimestre le giovani disoccupate al sud, ormai al picco del 44%. Ed è un quadro con poche luci e molte ombre quello che emerge dal recente rapporto Data Giovani sulle assunzioni degli under 30 nel 2011. Sulla carta sarebbero disponibili oltre 200.000 posti di lavoro per i giovani, più 6%. Il problema è rappresentato però sia dallo squilibrio geografico, con l'aumento localizzato solo al nord, mentre il centro-sud fa registrare una flessione, sia dalla domanda di laureati. Saranno solamente il 15% dei neoassunti, solo il 3,5% nei settori della progettazione e ricerca e sviluppo. E sono solo 2,4 miliardi i fondi pubblici investiti per l'inserimento dei giovani nel 2011 in Italia, contro i 24,2 stanziati per sostenere il reddito dei lavoratori temporaneamente disoccupati, lo afferma il Sole 24 Ore. Boom di milanesi che scelgono la rotta dell'estero. Secondo dati AIRE, la colonia di Meneghini oltre frontiera ha sfondato quota 60.000 nel 2011, con un incremento del 134% nell'ultima decade. Nella fascia d'età 25-35 anni l'incremento è esponenziale, più 180%, da 2.897 a 8.138 unità. Per l'assessore allo sviluppo economico Cristina Tajani si tratta di un'emorragia di capitale umano i cui risvolti economici sono molto negativi. I milanesi scelgono nell'ordine Gran Bretagna, Svizzera e Stati Uniti. Se ne parlerà il 10 ottobre a Milano alle 18 in un aperitivo organizzato da Controesmo. Notizie in chiaroscuro dal mondo della ricerca: 1 miliardo di euro per interventi straordinari per le università del sud è stato annunciato dal CIP, 150 milioni saranno destinati a creare poli d'eccellenza, altri 850 per interventi mirati. Tuttavia, se guardiamo al quarto bando destinato a borse per giovani ricercatori del Consiglio Europeo della Ricerca, scopriamo come dei 49 progetti italiani premiati, quasi la metà, ben 23, sono stati presentati da ricercatori al lavoro all'estero. Areanetworking.it, ricerca italiana immigrati impegnati nei settori dell'information technology e delle telecomunicazioni. L'obiettivo è intervistarli per sondare le differenze occupazionali tra Italia e il resto del mondo. Per contattare l'iniziativa italiani all'estero @areanetworking.it. Sarà premiato il 14 ottobre all'Istituto di Cultura Italiano di Los Angeles il team guidato da Marco Castriota, vincitore del concorso Cervelli in Movimento organizzato dall'associazione Bridges to Italy. A presiedere la giuria Sandra Savaglio, astrofisica di fama internazionale al lavoro in Germania, che ci spiega lo scopo del premio rivolto ai giovani innovatori del mezzogiorno. Premiare idee interessanti sviluppate nel sud Italia e dare loro la possibilità di introdurre queste idee in una situazione, quella californiana, all'avanguardia dal punto di vista economico e anche insomma scientifico, favorendo dei giovani cervelli e aiutandoli a sviluppare anche la loro esperienza. Secondo me questa è una cosa fondamentale, cioè imparare che le buone idee possono avere successo se vengono proposte nel modo giusto. Chiaramente gli Stati Uniti sono degli esperti da questo punto di vista.

moda, conclusasi prematuramente nonostante le promesse, le ha fornito la giusta spinta per aprire la propria agenzia di promozione di designer. Ora si gode lavorativamente, ma non solo, la capitale tedesca che definisce un paradiso per gli italiani. E ci raggiunge ora in linea Alessandro Biasi, giovane designer e fondatore del marchio Eilab. Alessandro vive e lavora proprio a Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Alessandro, per cominciare, raccontaci subito qual è un po' il nesso che ti lega a Lisa e alla sua agenzia. Noi abbiamo sfilato nel gennaio del 2010 a Berlino Fashion Week come ospiti italiani. Da lì abbiamo cominciato a sentirci via mail, via Facebook, ci siamo incontrati a Milano e davanti a un caffè abbiamo parlato un po' di quello che è il mondo della moda in Italia. Raccontaci come nasce la tua avventura nel mondo della moda, con l'idea di combinare moda e arte. Siamo partiti come un collettivo creativo durante appunto ancora gli studi, quindi l'idea di presentare a Milano, che comunque è la capitale del prêt-à-porter, un prodotto che avesse un forte connotato, diciamo, emotivo. Da lì è partita l'idea di aprire un marchio che è diventato appunto un vero e proprio brand. Ecco, voi connotate fortemente la vostra identità italiana e milanese fin dal marchio, un timbro postale che riporta Milano e Italy. Però ti ribalto la domanda: Milano e più in generale l'Italia sono pronti a ricambiare offrendo opportunità concrete ai loro giovani di talento? Noi crediamo moltissimo nel Made in Italy e nella nostra identità appunto italiana. Ci sono molte opportunità, esistono moltissimi concorsi di livelli diversi. Non so quali di questi possano davvero portare dei risultati concreti, ma sicuramente sono delle ottime vetrine. L'Italia non è un paese per giovani, così dice Anna Wintour, la potente direttrice di Vogue America a Milano per le sfilate di Prêt-à-porter. Per la Wintour all'Italia servono nuovi e giovani talenti. E ai giovani stilisti, la direttrice che ha ispirato Il Diavolo Veste Prada consiglia di avere il proprio stile e credere in ciò che si fa. È sufficiente in Italia, Alessandro? Non è sufficiente, ma credo che sia indispensabile, perché gli italiani sono molto chiusi e molto, appunto, c'è un cambio tra una generazione e l'altra che è praticamente lentissimo e inesistente. Quindi c'è bisogno che i designer abbiano un'identità e la facciano pian piano assimilare. Un anno fa, commentando online un articolo del magazine Time sulla fuga dei giovani professionisti dall'Italia, una lettrice scriveva: sono una trentenne e ho lavorato 4 anni come designer per un brand di moda molto famoso, avevo un contratto temporaneo senza benefits e stipendio base. Durante la crisi l'impresa mi ha licenziato, nel corso di un colloquio mi fu detto che per essere assunta avrei dovuto accettare una riduzione del 25% dello stipendio già basso, e mi fu reso chiaro che avevo 0 possibilità di futura crescita interna, dopotutto ero solamente una donna giovane. Quanti come lei in questa situazione, Alessandro? Credo che ce ne siano tanti, ma devo dire non solo in Italia, perché ho diversi amici che lavorano all'estero per brand anche famosi e la situazione non è così migliore. Diciamo che è proprio questo che ci ha spinto ad aprire una nostra attività, appunto perché le ore di lavoro sono tantissime e sottopagate. Guardiamo però con ottimismo al futuro, Alessandro. Sì. Continuerete a credere nell'Italia per portare avanti il vostro lavoro? E se sì, perché? Milano potrà continuare ad essere capitale internazionale della moda anche col lavoro dei suoi giovani designer? Assolutamente sì, continueremo a credere nell'Italia e nel Made in Italy, e credo che i giovani debbano comunque combattere e non adagiarsi al sistema. Grazie ad Alessandro Biasi. Grazie. Bocca al lupo. Lisa, domanda di rito per chiudere: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Io consiglierei appunto di valutare quali sono i pro e i contro e cosa perde andando via, visto che di solito non si perde un granché. Come dice Alessandro, sicuramente il sistema va cambiato dall'interno, quindi se noi siamo capaci di uscire dal sistema ma di rientrare e arricchirlo, secondo me potrebbe essere veramente la svolta per l'Italia. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova emigrazione. Oggi vi parliamo di Cervelli Fuori, il primo diario online scritto da 5 giovani espatriati. Vivono a Barcellona, Copenaghen, Norimberga, Parigi e Vancouver. Erika Crivello, ideatrice di Cervelli Fuori, risiede in Danimarca. Così ci spiega l'idea del blog. L'idea nasce quando decido di trasferirmi a Copenaghen e quindi inizio a navigare un po' sul web e vedo che quello che manca, secondo me, è un blog, una sorta di raccoglitore di esperienze personali. Manca qualcuno che ti racconti che cos'è alla fine la vita quotidiana all'estero di una normale persona che si trova a confrontarsi con normali difficoltà quotidiane. Tu sei 25enne, perché sei andata in Danimarca? Io lavoravo a Torino e sullo scadere del mio contratto temporaneo, da una parte mi sono guardata un po' alle spalle, dall'altra ho guardato un po' verso il futuro e mi sono detta: ok, questo è il momento di partire, perché se non è una fuga, sicuramente è poco ci manca. un'opportunità che uno si trova a cogliere. E qui arriviamo al tema anche della nostra trasmissione Giovani Talenti, cioè una generazione che sta letteralmente uscendo dall'Italia per cercare alternative. Hai detto se non è una fuga, però di fatto è quasi una fuga generazionale. Qual è la tua impressione? Di fronte appunto alla mancanza di alternative, dopo un percorso di studio magari anche lungo, uno si trova a considerare il fatto di dover andare all'estero, casa altrove, all'estero, quindi... È un problema generazionale, secondo te, questo italiano? Sicuramente è un problema dettato dalla non meritocrazia in Italia, per cui uno non si trova ripagato dei propri sforzi e quindi sì, probabilmente sta sfociando un pochino di più nella nostra generazione per circostanze note. E all'estero cosa trovate? All'estero talvolta è difficile, nel senso che devi iniziare tutto da capo, ricostruirti una rete di relazioni, non è sempre così immediato e facile, però sicuramente si trova trasparenza ed ecco, la meritocrazia qui esiste, per cui se uno fa degli sforzi poi dopo un po' i risultati si vedono. Quali sono le informazioni, i servizi, le utilità che si possono trovare su questo blog? Consigli su come cercare casa, come aprire un conto in banca, anche cose molto più banali. Da una parte il lato giocoso, divertente, dall'altra quello molto pratico di questioni banali di tutti i giorni. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.cervellifuori.it. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.